Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Questa settimana dunque anche l'Unione Europea ha inserito Hezbollah nella lista nera del terrorismo, come già aveva fatto Stati Uniti ed Israele. Motore di questo dibattito e di questa decisione in Europa è stata la Gran Bretagna, che negli anni ha condotto diversi tentativi per arrivare al risultato che dal suo punto di vista però è solo un risultato a metà. Nella lista nera finisce infatti solo l'ala militare del movimento libanese sciita. A favore ha infine votato anche l'Italia, anche se con parecchie riserve. Molto irritato invece il Libano, dove Hezbollah è forza di governo. La decisione europea è stata presa ufficialmente in risposta all'attentato antisionista di Burgos del 2012, di cui il movimento sciita è ritenuto responsabile. Hezbollah nega qualsiasi responsabilità, parla di grave errore dell'UE. Arduino Paniccia, docente di studi strategici all'Università di Trieste, sostiene che i motivi veri della decisione sono ben diversi. Lo ha intervistato Laura Bettini. Il vero problema di fondo non è la questione del terrorismo o meno di Hezbollah, che pure esiste, ma è la guerra di Siria, dove Hezbollah è entrata come ormai praticamente milizia combattente a fianco di Assad. E l'Europa ha preso questa decisione, forse anche per compensare la decisione che aveva amareggiato gli Stati Uniti di non fornire armi ai ribelli. Quindi sembra una sorta di compensazione, per cui l'episodio bulgaro è diventato l'occasione per ridiscutere in Europa questa materia di Hezbollah e di decidere che l'Europa comunque la metteva nella lista nera. Il problema di prendere le cose oblique e trasverse rende le posizioni opache e finisce per comunque colpire anche gli interessi d'Europa, perché un Mediterraneo completamente destabilizzato, impoverito, con ai suoi confini paesi dove ci sono ormai milioni di giovani disoccupati, con anche la sponda nord, la nostra, in preda della crisi, non è il Mediterraneo migliore che noi vogliamo immaginare. Quindi affrontarlo sempre in maniera così trasversa non è un vantaggio per nessuno, e questo è il più grave difetto che in questi tempi hanno le riunioni dell'Unione Europea. Questa decisione di mettere Hezbollah nella lista nera ha qualche riflesso sulla sicurezza europea? In Italia io sinceramente non vedo dei gravissimi riflessi. Per l'Europa potrebbero esservi dei riflessi verso i paesi che tengono una linea dura e verso i quali Hezbollah, l'ala più, diciamo, militare e l'ala più terroristica, potrebbe decidere di fare qualcosa. Basta costi aggiuntivi che il cliente è costretto a pagare quando usa le carte di credito, caso che riguarda in particolare l'acquisto dei biglietti aerei online. Con una direttiva la Commissione dell'Unione Europea oggi a Bruxelles propone di tagliare le tariffe interbancarie, cioè i costi che le banche si applicano a vicenda per le transazioni con carte e bancomat. Abbassando i costi per le banche, spiega Bruxelles, si abbasseranno anche i costi per i consumatori. E ancora, questa settimana abbiamo avuto tra gli ospiti qui a Radio 24 il ministro della Difesa Mauro per parlare tra l'altro di una difesa, il futuro dell'organizzazione comune della sicurezza e della difesa. Bene, oggi Mauro esprime soddisfazione per le comunicazioni in questo senso che arrivano proprio dalla Commissione Europea, che si è impegnata in un progetto di innovazione tecnologica e di coordinamento appunto per i sistemi di difesa. Per il ministro italiano si tratta di un risultato importante che riflette pienamente la volontà del nostro governo. E ora sentiamo il consiglio quotidiano di Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo iLocal, il progetto di apprendimento delle lingue meno usate e meno insegnate. Finanziato nell'ambito dei programmi che sostengono la politica linguistica dell'Unione, basata sulla promozione delle diversità linguistiche e del multilinguismo, iLocal ha lo scopo di far acquisire abilità linguistiche in parallelo alla graduale conoscenza della cultura ad essa associata, e nello specifico si concentra su finlandese, italiano, olandese, polacco, portoghese e ungherese. I corsi sono costruiti attorno alle avventure di Anna e Alex, due giovani Erasmus, e gli studenti sono stimolati a sviluppare competenze attraverso l'e-learning in un apposito ambiente online. Per informazioni ec.europa.eu nella sezione Lingue. E naturalmente, come sempre, tutte le informazioni su radio24.it. Per ora è tutto. Da Filippo Reggi in regia e Gigi Donelli al microfono, un saluto, l'appuntamento con l'Europa domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.